già una tempesta, ma la forza degna d'un re. Mille pianure senza confini ammira e scruta lui dall'assù. Incatenati, sciocchi e perduti, poveri umani noi qua giù. Nai nare nana, nanu nara, nai nare nanara nara ira. Nai nare nara, nanu nara, nai nare nanara nara ira. Resta qui, airone, non volare via da me. Se devi andare, prendimi, ti prego, portami con te.